Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento e intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. La nota classica che contraddistingue ogni mia nuova partenza è la voce del treno che prega i viaggiatori di silenziare i loro telefoni. Per quanto lo abbia silenziato il suo smartphone, la ragazza che mi sta di fronte, comunque un ronzio insistente, fastidioso, noioso, penetrante, continua a venire dalla sua borsetta. Tanto che a un certo punto la sua indifferenza al rumore che ella sente come io sento mi fa pensare che ella nasconda qualcosa. E quindi glielo domando. Sento zzzz dalla tua borsetta. Cosa c'hai dentro la borsa? Il cellulare c'ho. Hai tolto la suoneria, come sì, giusto? Sì, ho tolto messo la vibrazione in treno. Sì. Ma ti stanno chiamando per cosa? Con grande insistenza, vedo. No, mi stanno richiamando dal lavoro. Cioè, ho fatto un colloquio, ma non so se rispondere, mi stanno richiamando. Ma perché ti dà fastidio rispondere sul lavoro? No, sinceramente sono un po'. Non lo so, non mi hanno convinto alcuni atteggiamenti durante il colloquio da parte del capo. Che tipo di lavoro fai, tanto per capire? Copywriter. Ah, quindi è un lavoro di tipo creativo? Sì. Sai, è un momento che non si butta via mai niente, prima di rinunciare. Un lavoro io ci penserei due volte. Non so, mi sono sentita a disagio, penso che uno per non era adatto per te, non era la forse, tua altezza. Forse no. Ma cosa dovevi fare in sintesi? Cos'era, un progetto interessante? Sì, abbastanza. Sì, un progetto abbastanza interessante, però non so se c'è una giusta sinergia tra me e il capo. Beh, sai, fare un colloquio di lavoro a Milano quando si abita a Roma già vuol dire aprirsi rispetto a una città che è così legata alla politica, agli intrallazzi, ai preti. Ti chiamano a Milano con un lavoro come tuo, la città della pubblicità, della moda. Sembra una bella occasione, no? Sì, anche se preferisco, insomma, Roma. Comunque ci sono delle logiche sgradevoli. Perché cosa, non ti è piaciuto l'ambiente? No, non molto. I colleghi com'erano? Tante donne vestite in maniera molto discinta. Io sei, sono andata puritana te. No, ma sono andata in jeans tranquilla. Vabbè, mi guardavano tutte come è l'ambiente della moda, è un ambiente che guarda molto l'aspetto esteriore. Discinta che vuol dire, scusa? Ma minigonne. Ma tutte le milanesi hanno le minigonne. E sotto com'era? Taccatissime. Ah, quindi già tu c'è una preclusione di partenza. Assolutamente sì. Jeans e stivaletti. Cioè proprio ammazza voglia. Beh, tu sei andata apposta vestita così. Ma sì. Non volevi dare, vuoi vedere tu, volevi essere apprezzata per sono andata come la tua professionalità. Sono andata come sono. Senza un filo di trucco. Un filo di trucco. Maglioncino marrone, sciarpettina grigia. No, uno deve essere preso per quello che è. Parrucchiere, l'ultima volta l'hai visto la tua prima comunione. Scusami, non è che si va così al colloquio di lavoro a Milano. Vabbè, ok, com'è andato? Tu sei entrata in questo posto, ti hanno chiamato loro? Mi hanno chiamato loro su segnalazione di un loro collaboratore, io sono andata. Con il tuo curriculum? Con il mio bel curriculum, che non è stato nemmeno. Ma nemmeno l'hanno aperto? Nemmeno aperto. Il colloquio dove si è svolto? Il colloquio si è svolto nell'ufficio del capo. E le scosciate dove stavano? Le scosciate stavano tutte intorno, fuori. E che facevano? Forse niente. Ne giravano così? Giravano, facevano scena, sì. Arredamento. Ma tu sei il capo, com'era l'ufficio del capo? L'ufficio del capo. Del tuo possibile era capo. Pieno di gigantografie di donne nude. Ma c'è questa vena pretesca. Beh, donne nude, è la pubblicità, si basa su quello la pubblicità, no? Sarà. E come sono entrata nella stanza, lui mi ha messo una mano sulla schiena, volendo fare il cortese. Cioè ti ha spinto dentro toccandoti? Sì, nessuno. E ti ha dato fastidio questo? Sì. La vera cortesia, insomma, vuole. Beh, è un gesto. È un gesto, ma non si deve toccare la schiena. E ti ha dato fastidio? Hai sentito proprio il contatto? Ho sentito il contatto viscido. Fisico e viscido e mi ha un po' indisposto. Non è una zona, diciamo, innominabile, semplicemente no, la schiena. Però. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Però è brutto, questo è brutto, perché in fondo tu dipendi da lui, in quel colloquio tu chiedevi a lui di lavorare, è una posizione di svantaggio. Subordinata, esatto. Secondo te era un segnale che voleva già stabilire un contatto fisico? Secondo me sì. Questo ti ha condizionato tutto il colloquio? Assolutamente. Beh, non... Che domande ti ha fatto? Ma poi mi ha fatto delle domande molto... professionali? Molto all'americana. Tipo? Tipo con... quali sono le cose che lei sa fare meglio nella vita. Ma sembra una domanda a doppio senso però, scusa. Infatti. E ti guardava negli occhi dicendo quali sono le cose che sai fare meglio. Qual è la cosa che hai fatto meglio nella vita? Ma che c'entra? Che cosa c'entra con il lavoro? Io magari nella vita la cosa che ho fatto meglio, che ne so, una partita a pallone, per assurdo, mai giocato in vita mia, ma che c'entra con il lavoro che faccio? Sì. Ciò di cui va più orgogliosa, così. La cosa di cui va più orgogliosa? E tu che hai risposto? Ho tentennato. Cioè non gli hai detto una cosa di cui è orgoglioso? Sì, gliel'ho detta. E cos'era? Una cosa di lavoro? Sì, una cosa. Cioè un tuo lavoro un che fa? Un successo al lavoro, sì. Ma forse non voleva dire non, quello. Sì, non mi sembrava poi particolarmente interessato la risposta quando ho capito. Ma forse era una risposta creativa, dovevi dire, che ne so, ammesso tu il mio figlio, il giorno che mia mamma mi ha... che sono diventata donna, che ne so, il giorno che ho avuto... che ne so, che ne te devo dire, boh, che volevano sapere? Non lo so, tornando indietro non saprei cosa avrei detto. Quindi è stato un colloquio molto triste. Sì, molto triste. Cioè tu eri bloccata da quella mano che sulla schiena ha dato fastidio. Sì. Dopo? E dopo mi ha chiesto dove abitassi, in che zona della città stessi, se ero disponibile a spostarti da Roma a Milano. A spostarmi da Roma a Milano e se ero poi disponibile a fare anche tardi la sera al lavoro, a prolungare. Su questo tu hai dato disponibilità comunque, potevi cambiare sede, sennò che vai a fare colloquio. Sì, ho dato disponibilità. Quindi diciamo l'unico handicap è che avete avuto un feeling. E secondo te era importante avere un feeling di tipo emozionale, fisico, empatico con il capo? Assolutamente sì. Quindi era per quello. Un lavoro del genere. Quindi siamo tutti una grande squadra, questa cosa qua. Sì. Però la squadra è l'unico maschio e lui, l'altro tutte donne. Esattamente. Non so che aspettarmi, non so se rispondere. Quindi per questo tu non rispondi. Esatto. Tu pensi a un grande trappolone, ma come una volta, come le storie dell'Italia degli anni 50, il divanetto del produttore. Ancora esiste questa roba? Sì. Stamattina. Sì, però allora. Quanto sei sicura che questo non sia una tua elucubrazione, una tua paura, o piuttosto che una realtà? Cioè, hai visto veramente qualcosa di morboso, di squallido? Ci ho visto qualcosa di nemmeno allegramente malizioso, era proprio sì, morboso. La mano addosso, stabilisci contatto fisico. Sì, dal principio. Domanda sì. Se a doppio senso, sì. Cos'è che sai far bene? Una secondo te sprocedata, senza scrupoli, di quelle scosciate che stanno fuori. Come sarebbe comportata? Non lo so. Dalla manina avrebbe dato il bacino poi, non lo so. Probabilmente avrebbe salutato col bacino finale. E tu hai salutato col bacino finale? No. Ti ha chiesto, beh, il telefono chiaro che l'hai lasciato. Il telefono sì, era scritto sul curriculum. Non ti ha detto tu che buon profumo, fammi sentire? No. Non ti ha invitato a pranzo, cena, colazione? No, io ho detto che stavo, che insomma, che tornavo a Roma. Quindi tu probabilmente, se vera la tua ipotesi, gli hai dato l'impressione di una che non c'è niente da fare. Non c'è da perdere tempo. Esattamente, infatti. E qual è la cosa che più ti rattriste tutto quello? Aver fatto un viaggio a vuoto. Totalmente a vuoto. Sì. Pensa lui che penserà aver perso 10 minuti con una che manco lontanamente aveva l'aria di volermela dare. Vabbè, fattene una ragione. Ciao, verrà il tuo momento. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non ho mai visto un uomo solo così disperato di stare da solo. Eppure c'era gente in quello scompartimento.

Ho conosciuto una fantastica donna cannone in un museo pieno di sante reliquie, dove era venuta per intervistarmi sulle modificazioni della carne, tema a cui mi sono un tempo molto appassionato. Eravamo in un locale attiguo a una chiesa e il contesto mi aveva ispirato un sollevamento che trovai poeticamente eccelso. Quando le manifestai la mia intenzione e le annunciai che stavo per sollevarla, mi rise in faccia perché pensava che scherzassi, vedendomi in realtà come ometto intimidito davanti a lei, fantastica gigantessa dal regno delle favole. E invece la presi su, come fosse una piuma. Come Pollicino avrebbe potuto prendere in braccio per gratitudine l'orchessa che per salvar lui la vita arrivò ad ingannare il consorte famelico. La sollevai senza sforzo e senza nemmeno accorgermi dei 90 chili che lei mi dichiarò, con sublime civetteria, mentre già svolazzava altissima. Fu la più intensa delle mie sollevazioni e quando la posai mi parve per un attimo di poter volare. Il sollevamento di questa donna, che solo dopo seppi in realtà pesare 120 chili, ma mi mentì per civetteria, ha rappresentato il punto di svolta di quella che era solo una sporadica boutade, e per questo gliene sarò sempre grato. Passai qualche giorno a letto per la schiena dolorante, ma elaborai tutta la summa teorica del sublime sollievo della sollevazione di donne. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non so nemmeno quante volte nel corso della settimana io percorra con il mio Frecciarossa la tratta Roma-Bologna, Bologna-Roma. Sì, perché è uno snodo importante. Poi mi piace passare attraverso gli Appennini che in questa stagione sono imbiancati. Non sono solo questa volta, e questa volta non parlerò di una donna, parlerò di un uomo, anche perché mi sono stancato di essere considerato una sorta di provolone da scompartimento. È un ragazzo triste, è un bel ragazzo, è un giovane uomo, poi non so fino a che età uno possa essere chiamato ragazzo. Guarda fuori dal finestrino, guarda quel paesaggio e ho l'impressione che per lui sia molto familiare, ma lo guarda con una sorta di tristezza profonda interiore che sembra dilagare da ogni poro della sua pelle, e quindi la mia curiosità non può fare a meno di chiedergli perché. Quindi tu, ogni volta che prendi questo treno, c'hai un ricordo doloroso che ti attraversa il cuore. Sì, praticamente. Ma non l'hai ancora rimosso dopo un anno e mezzo? No, diciamo che questo treno, che definirei quasi dei desideri, come cantava All'incontrario va, come cantava Paolo Conte, ma vabbè, eccellente canzone di vabbè, Paolo tu Conte. Tu hai trovato una donna in questo treno? Sì. Questa donna, raccontami un po' più, ti è piaciuta? Come mai vi siete piaciuti, vi siete conosciuti? No, è stato un bellissimo incontro. Insomma, diciamo l'alchimia, se possiamo definire l'alchimia, è scattata veramente come una molla. Come lei, bellissimi occhi e niente. Lei cosa faceva nella vita? Lei era commercialista. È commercialista. Commercialista a Bologna. A Bologna, quindi vi siete incontrati nella tratta del Frecciarossa, esatto. Roma-Bologna. Io salivo per lavoro, anche lei stava tornando a Bologna, è stata a trovare una sua amica a Roma e niente, quindi. Vabbè, è nato un amore. Quanto è durata questa storia? È durata più di 2 anni. Una storia di passione, anni, diciamo. Sì. Beh, state proprio insieme. Sì, diciamo, sì, è stata una storia intensa e comunque vissuta. Con che frequenza vi vedevate? Diciamo, la frequenza era. Non ci vedevamo frequentissimamente, però. A fondo è un'ora e mezzo di treno. Era un'ora e mezzo di treno, però diciamo non riuscivamo, diciamo, a. Ci sentivamo molto tramite cellulare, però diciamo ci vedevamo comunque non tantissimo. Comunque eravate una coppia a tutti gli effetti, considerate tali. Sì, sì. A un certo punto ti sei accorto però che qualcosa non andava, perché se la storia è finita, come mai? Ma perché, diciamo, c'erano delle cose che non mi tornavano, insomma. Eri gelosa? Ero, sì. Lei era gelosa di te? Sì, sì. Molto sì, gelosa. Lei era molto gelosa, lei mi chiedeva spesso cosa facessi quando io e lei non ci vedevamo. Esatto. Vabbè, come ogni donna innamorata, esatto, richiede, sì, pretende, esatto, fedeltà, esatto, ma è anche giusto. Esatto, sì, sì. E tu, sì, quindi, cosa ti sei accorto invece? Io mi sono accorto invece che c'era una persona nella sua vita. Un rivale. Un rivale, sì. Ma da cosa l'hai capito questo? Dai social network. Guarda, hai fatto un'analisi approfondita, esatto, di tutti, esatto, i suoi social network, hai capito. Foto che poco chiare, foto, diciamo, non proprio. Ce la vedevi spesso con un altro? Sì, sì, sì. Lei, sì, dice, sì, la cosa, un amico? Un amico, un mio carissimo amico, una persona che conosco da quando sono piccola, da 12-13 anni. E tu come sei risalito, diciamo, a questa persona? Io sono risalito fondamentalmente facendo di social in social. Di social in, più che di social in social, diciamo, le cose che lei mi diceva, le cose che lei mi raccontava, poi io, diciamo, le confrontavo, nel senso hai fatto un'attività di intelligence. Sì, esatto, proprio di investigativa, perché. E a cosa sei arrivato a capire? Sono arrivato a capire che in verità questo fantomatico amico, quasi fraterno, in verità era il suo storicissimo compagno, fidanzato. Ma tu sei risalito anche a cosa faceva nella vita questa persona? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, erano colleghi e compagni di liceo, tutta una vita insieme. Quindi aveva un'altra storia. Aveva vera. Un'altra, esatto, esatto. E tu cosa hai fatto a questo punto? Io in modo piuttosto rocambolesco sono riuscito a ottenere il numero di telefono di lui, perché poi attraverso, diciamo, il curriculum presente sul... Ah, quindi dal nome sei andato a vedere, esatto, all'associazione, esatto, commercialisti, esatto, dove c'è, esatto, esatto, l'ordine dei commercialisti, esattamente. Ho trovato il numero di telefono, cioè, poi ho confrontato le date, nel senso i nomi, quindi sono riuscito, diciamo, ho fatto un'opera, ma è stato paradossalmente anche facile. Sono tutte fonti aperte, tutte fonti, tutto. Google, io ho messo il nome su Google, il nome della persona su Google e sono giunto. Quindi hai avuto il telefono del tuo rivale, e cosa telefono. Hai fatto? L'hai whatsappato? Lì per lì, diciamo, sì, diciamo, ho trovato una foto su WhatsApp particolarmente, cioè? Rilevante / rivelante, cioè? foto di lei in vacanza, cioè nel suo profilo di WhatsApp, esatto, ti è apparsa, esatto, subito la foto, esatto, di lei, e quindi, sì, hai capito che sono andato a lei, ho chiesto spiegazioni, ma come mai, perché, quindi no, ma è il mio ex fidanzato. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Poi, diciamo, complice una litigata furibonda in cui lei voleva, diciamo, troncare improvvisamente la nostra relazione, io avevo bisogno, necessità di capire a fondo cosa ci stesse dietro, perché stavo diventando pazzo. E che hai fatto? No? E ho chiamato lui. L'hai chiamato al telefono? Ho chiamato lui. Com'è andata la telefonata? Lui, devo dire una cosa, tranquillissimo, nel senso ha... Non sapeva nulla. Non sapeva nulla, sorpreso. E tu, ma cosa gli hai sorpreso, detto? Sono l'amante di tua moglie. Praticamente ho chiesto lui che tipo di rapporto ci fosse con questa ragazza, con questa donna. Lui ha detto, guarda, noi stiamo insieme da tempo infinito, da decenni, cioè da tantissimo tempo. Lui era il vero uomo. Sì. Quello ufficiale, diciamo, aveva, era il... E tu hai detto, io invece ci sto da 2 anni. Sì. Se io dovessi fare un paragone calcistico, lui era l'attaccante che giocava 80 minuti. E tu la riserva. Io ero la seconda punta, diciamo, la riserva che entrava in campo gli ultimi 10 minuti del secondo tempo, diciamo. Ma come ha reagito lui quando ha saputo questa notizia? Ci siamo incontrati, c'è stato. Ah, l'hai visto proprio? Sì, c'è stato un incontro. Quindi niente di scontro fisico? No, assolutamente. In fondo eravate feriti entrambi. Esatto. E cosa, sì, gli ha detto in questo incontro? Mi ha spiegato, ho capito, confrontandoci, che tutte le volte in cui io non vedevo lei, era perché... Cioè, avete fatto l'incastro? Sì, con abbiamo la incastrato gli eventi, abbiamo confrontato... Senti, ma Eduardo, non so, non c'era un Natale, una Pasqua, una vacanza, che non ti insospettissi che questa non poteva star con te? Cosa ti diceva lei? Si trovava, andava a casa dei genitori, stava con i genitori, era molto, parenti... Molto affezionata ai genitori, era tipica scusa. Poi comunque la distanza, diciamo, era... ha giocato a suo favore anche il fatto che noi comunque vivessimo in due città diverse. Andava bene anche a te, non fai capodanni, due Pasqua, i Natali con un'altra persona che è noiosissima. Sì, diciamo sì, quello sì, però magari ecco è stata dura poi lo scontro con la... Senti, nel vedere quest'altro uomo, ti hai fatto qualche domanda? Ti assomigliava, non ti assomigliava? Cioè, vedere davanti il proprio rivale... Penso che noi due avevamo delle cose in comune, per certe cose eravamo abbastanza simili, per altre invece no. È stato cordiale l'incontro? Sì, assolutamente. Ci siamo presi anche una birra, quindi è stata... Per bere, per dimenticare. È stato più che... Adesso la patata bollente c'ha in mano lui, però che fa lui adesso? Scusa. Ah, questo non lo so, perché io poi ho interrotto i contatti sia con lui che con lei. Forse sono sposati, hanno già un figlio. Magari, io sì, adesso a distanza di tempo... Forse avranno, sai, si fa un figlio così. In questi casi sì, perdona. Che... Quindi l'hai saputa questa cosa? Questa mia ipotesi è reale. Sì, perché poi ho incontrato, diciamo, tempo fa una sua amica e mi ha raccontato che hanno attualmente un bambino. Comunque gli amici comuni stanno ben zitti su questo. O lei era talmente brava a non farti conoscere le persone che sapevano del suo rapporto? Sì, lei da questo punto di vista. Io non ho mai conosciuto una persona vicino a lei. Chiaro, come faceva? Molto vicino a lei, che chiaramente, logicamente, non una sorella, ma neanche un'amica intima, stretta. Tu non ti eri fatto domande su questa vita misteriosa? Io ci credevo, onestamente pensavo che le cose fossero come lei mi diceva, e non mi sono una persona sì, diciamo, gelosa, però ero in buona fede. Sei diventato più sospettoso adesso sui grandi amori? È stata un'ottima scuola di vita, diciamo, ho imparato molte cose. Sì, però vedo che ancora guardi nostalgico fuori del finestrino mentre ci avviciniamo a Bologna. Sì. Ci sarà una ragione. Sì, devo dire che purtroppo... Non è andata giù. No, onestamente sì, io purtroppo anche per carattere sono una persona abbastanza malinconica, per cui ahimè Bologna... Ma tu ti sei rifatto delle storie, spero. Sì, diciamo ho ricominciato in qualche modo anche con un'altra ragazza con la quale attualmente... E l'hai raccontato questo tipo, no? Sì. Sai tu? Io ho raccontato... Vabbè, sei stato onesto. Almeno lei sa già che sì, comunque No, perché poi insomma, come deve comportarsi. È stato tutto molto particolare, quindi sì, diciamo che forse è un deterrente. L'ultima forse. Cosa, ma i tuoi amici che sapevano che stavi con questa ragazza, come hai giustificato poi? Gliel'hai raccontato? Agli amici intimi sì. Perché diciamo, un uomo è sempre riluttante a confessare certe cose, si sente un po' di... Ma io purtroppo sono un po', da questo punto di vista non riesco molto a tenere le cose per me. Io insomma, mi viene piuttosto facile, diciamo, parlarne, chiaramente non con tutti, ma con le persone. Beh, lei era molto brava a tenerle per sé, visto? Sì. Vabbè, per stata... questo vi siete incontrati, conosciuti e forse anche amati. Ciao, io sto scendendo e salutami Bologna. Ciao. Povero giovane uomo dall'amore deluso, povero giovane uomo dal cuore martoriato, ma finalmente ha scoperto che in fondo una delle maggiori gloriose caratteristiche dell'uguaglianza proclamata, reale, vissuta fra uomo e donna è che entrambi i generi abbiano le loro lecite pulsioni. E molte volte vivere in città differenti o spostarsi, avere due vite, una fatta di lavoro, una fatta di frequentazioni, fa sì che si perda il senso dello sdoppiamento. E quindi è molto facile che questa donna, che probabilmente l'avrà anche amato, ogni volta che prendeva il treno e passava l'Appennino, si sentiva un'altra persona, e con lecito diritto di vivere un'altra vita. E quando tornava indietro, tornava dal suo legittimo innamorato, e quindi in fondo... Lei non ha nessuna colpa, ma lui lo sa, perché in fondo ancora la pensa. Je me laisserai porter par le hasard, surmonterai mes doutes et mes peurs, j'avancerai guidée par le désir, passerai du noir à l'illumination, je dériverai vers l'inconnu. treno va. Ecco, siamo arrivati al momento della audiolettera, della storia che mi viene scritta, delle ascoltatrici che scrivono a iltrenova@radio24.it e mi sottopongono sempre più spesso problemi di cuore o problemi, anzi, ancora di più, di storie d'amore finite male, disastrate, e vorrebbero che io fossi solidale con loro, con gli uomini disgraziati e infami che hanno conosciuto nella vita, che hanno lacerato i loro poveri cuoricini innocenti. Caro Gianluca, mi rivolgo a te non tanto per avere un parere sul comportamento femminile, quanto su quello maschile. Il personaggio di cui tra breve ti parlerò e che ha segnato la mia vita mi sembra rientrare in una categoria ben definita di maschio, come devo purtroppo ammettere a posteriori. L'ho conosciuto 10 anni fa a Roma. Io avevo 26 anni, lui 48. Io ero fresca di laurea in lettere, qualche fidanzato, qualche storia, ma senza mai provare grandi coinvolgimenti. Apparivo come la classica brava ragazza e probabilmente lo ero. Poi questo incontro alla presentazione di un libro. Sì, perché l'uomo in questione è uno scrittore e anche noto. Ovviamente non farò mai il suo nome, né tantomeno il mio. Mi autografa la mia copia del suo libro e mi lascia il suo biglietto da visita. Gli scrivo alla sua mail il giorno stesso, mi risponde la sera stessa e poi da lì scambi vorticosi di mail e poi SMS. Ho capito subito che non avrei avuto scampo. Dopo poco più di una settimana mi invita a cena a casa sua. Quando ho messo piede nel suo appartamento in pieno centro, straboccante di libri, non credevo ai miei occhi. Mi ha sedotta e conquistata. In una notte mi ha fatto accendere mente e corpo come nessuno aveva mai fatto. Beh, finora è da manuale, è chiaro. È il sogno di tutti noi che in realtà da piccoli siamo stati costretti a leggere e studiare e abbiamo spessi occhiali. Che qualcuno apprezzi anche il fascino del nostro saper parlare, del nostro affabulare, di quella parvenza di cultura che riusciamo a millantare, e quindi uno scannatoio invece che pieno di stampe cinesi e lampioncini rossi, fruste e staffili, è pieno di buona letteratura, pieno di saggi interessanti, con quel bel profumino di muffa da biblioteca che tanto attizza le donne. Beh, è caduta nella rete di un certo ragno, molto particolare, probabilmente meno spavaldo e meno appariscente, ma non meno velenoso. Da quel giorno è cominciata una storia in cui era facile capire chi era la persona con il coltello dalla parte del manico. Mi sono innamorata e mi sono dedicata a lui con tutta me stessa. E lui? Hai presente la canzone Minuetto di Mia Martini? Ecco, in sostanza quella storia lì l'ho vissuta sulla mia pelle. Quando voleva mi chiamava e io correvo, qualsiasi giorno, qualsiasi orario, giorno o notte, e non solo per il sesso. Io lo ho aiutato a scrivere i suoi libri, a fare ricerche, a passare nottate preparandogli il caffè, e non solo quello. L'ho assistito quando stava male, l'ho sostenuto anche quando ho avuto problemi con un certo tipo di dipendenze. Quando aveva scatti d'ira e quando avrebbe voluto mollare tutto, io ero là a tenerlo in piedi. Era anche molto divertente perché non mi annoiavo mai. Insomma, caro Gianluca, la mia vita per 8 anni ha preso senso nel diventare sostegno e condivisione della vita di un altro, senza una vera reciprocità, a parte rari momenti. E sono stata io ad accettare da subito questa disparità. Ovvio, quando spariva anche per un mese non gli facevo domande, cercavo di non farmele io, ma a differenza sua, non ho mai avuto altre storie, non ne avevo bisogno. Un bel giorno sparisce per 2 mesi. Gli scrivo, lo chiamo, niente. Mi accerto che stia bene tramite amici comuni, che però nulla sapevano di noi due. Poi, dopo una settimana, accendo la TV e lo vedo dichiarare in un'intervista di essersi innamorato e che spera di diventare padre. Lui, il nichilista, il libertino. Gli scrivo un SMS, niente. Non mi ha più rivolto la parola e io, annichilita non tanto dalla sua scelta ma dal suo silenzio, non ho avuto più la forza di scrivergli nemmeno un insulto. Tu dirai, cara mia, che pretese avanzavi verso un tipo simile? Se eri stata al gioco per tanti anni, sapevi che il gioco poteva interrompersi quando lui l'avrebbe deciso. Certo, però caro Gianluca, non era un gioco quando gli reggevo la fronte per farlo vomitare e quando mi diceva baciandomi, senza di te non avrei scritto nemmeno una pagina di questo libro, non trovi? Ahimè, cara amica, L'intellettuale, proprio per il fatto che usa il cervello, la mente, la parola per esprimersi e anche per guadagnarsi il pane, a torto viene considerato come una sorta di essere angelico, essere eletto, perché conia e fabbrica bei pensieri, bei racconti, uno strutturato mondo fantastico non è detto che sia meno infame di ogni altro uomo, esattamente come un muratore, come un fabbro ferraio, come un ragioniere, come un commercialista, come un avvocato, con quella dose necessaria di infamità maschile che fa sì che a noi piaccia giocare su questo senso femminile del io ti salverò, io sarò la tua croce rossina, io sarò la donna in cui appoggerai il tuo capo affranto e sarà per te madre, infermiera, compagna e anche ispiratrice di lussura. Tutto questo sta bene, a noi sta bene, va bene, però alla fine anche noi ci stanchiamo, ci scocciamo, e una volta reclutata l'infermiera, beh, alla fine la mandiamo in pensione perché abbiamo bisogno di cambiare anche lo staff delle nostre infermiere. E questo è accaduto all'intellettuale, mi rendo conto che faccia male, ma sarebbe potuto accadere con qualsiasi altra categoria umana. Non pensate che l'intellettuale sia un santo, è un uomo come gli altri. Ma la cosa che ora più gli rimprovero è che io di questi 8 anni non so più come liberarmi. I miei coetanei normali, si è detto tra virgolette, mi sembrano insipidi e banali. Io stessa non sono più nemmeno abituata ad uscire come tutti il sabato sera col fidanzato. Non me ne frega niente. Che cosa posso fare? Mettere un annuncio del tipo «Cercasi compagno per andare insieme sulle montagne russe?» Ahimè, temo che si presenterebbe qualcuno con il biglietto del Luna Park. Lo so, questo vale per qualunque categoria umana, mi ripeto. È chiaro, hai toccato, o almeno ti sei illusa di toccare, vette così sublimi di questa sorta di sincretico connubio fra anima e corpo, in cui le tue viscere palpitavano dall'abbraccio amoroso di quest'uomo che nel contempo faceva palpitare la tua mente. Quindi pensi che un uomo normale, banale, che ti porta a prendere un gelato, ti porta a cena fuori, ti toglie le mutande, sia qualcosa di meno. Ma col tempo capirai che in realtà è sempre l'ultimo quello che ci lascia. Vale per gli uomini che per le donne, che noi consideriamo l'amore indimenticabile, ma vedrai che ci passerà sopra qualcos'altro, te lo dimenticherai e riderai delle muffe, dei vomiti, dei piagnistei del tuo bravo intellettuale che starà lì a pulire il sedere a un bambino con una moglie isterica accanto. It's a suit.